Questo famoso chiaretto era un vino un po' scialbo, ma abbastanza buono. Quei fratoni del convento si fanno un quarto di lega attraverso il bosco per venire a bersene un'ombra, disse l'uomo. Credevo, rispose ingenuamente Angelo, che bevessero solo l'acqua di quella bella fontana che hanno sul ciglio della strada, sotto i platani. E poi è permesso che vengano qui a bere del vino? Se prende le cose per il sottile, disse l'uomo, niente è permesso. È permesso allora a un ex sottufficiale del 27° reggimento di fanteria leggera di fare il locandiere su una strada dove passano appena le volpi? Sta scritto nei diritti dell'uomo? Quei frati sono brava gente, certo. Ogni tanto giù colpi di campana, oppure tutta una parata con trombe e bandiere per le rogazioni. Il loro vero lavoro è quello di coltivare la terra. E la prego di credere che non mancano di farlo. E allora, lo ha mai visto lei quando si tratta di vino, un contadino che ci sputa sopra? Del resto, il loro Dio ha detto: bevete, questo è il mio sangue. L'unica cosa che ho mandato via, mio nipote. Li metteva in imbarazzo per via delle sottane, senza dubbio. Seccante quando si portano per convinzione. Vedere qualcuno che le porta per necessità. Adesso sono solo nella baracca. E cosa vuole che mi faccia se ogni tanto mandano giù un bicchiere? Ognuno ci trova il suo vantaggio. Non è questo l'essenziale? Oh, del resto, proseguì, lo fanno da gentiluomini. Mai che vengono per la strada, fanno un gran giro per i boschi. E per uno che ha sete non è mica uno scherzo. Quanto a penitenze e a tutte quelle altre storie che loro se ne intendono certo più di me. Ed entrano dalla parte di dietro, dove lascio sempre aperta la porta della scuderia. Altra mortificazione per chi abbia un po' di fierezza. Però, chi mi avrebbe detto che un giorno sarei diventato cantiniera? Angelo faceva qualche riflessione profonda. Capiva che ad abitare solo in quei boschi muti, si doveva aver bisogno di compagnia e di parlare al primo venuto. Col mio amore per il popolo, si diceva, sono proprio come questo sottufficiale sul ciglio di una strada dove non passano altro che volpi. L'amore è ridicolo, mi si dirà, e piantala. La verità sta nelle spalle nude di quella donna che ti ha dato il caffè. Erano belle e le fossette ridevano graziosamente, nonostante la pelle abbronzata. Che ti occorre di più? Hai fatto il difficile, prima, con la fontana o anche con l'ombra fresca del faggio e con quei pioppi che anch'esse scintillavano con molta grazia. Ma con il faggio, il pioppo e la fontana si può essere egoisti. E chi mi insegnerà ad essere egoista? È incontestabile che con quel suo panciotto rosso sulla pelle, quell'uomo se ne sta qui tranquillo e può parlare come gli pare col primo venuto. Angelo era stato molto impressionato dal silenzio dei boschi. Non ho sala da pranzo, gli disse infine quell'uomo tranquillo, e di solito mangio il mio spuntino su quel tavolo di marmo che vede là. Penso che sarebbe un po' sciocco che mangiassimo in due tavoli separati, tanto più che dovrò alzarmi ogni momento per servirla. Ci vedrebbe nessun inconveniente se preparassi per tutte e due allo stesso tavolo. Saprò comportarmi bene se questo le fa piacere. Ma sono solo e... Questa parola decise Angelo. Inoltre, trovò il modo di farsi pagare anche il vino che avrebbe bevuto lui. Del resto si comportò benissimo. Nei bivacchi aveva preso l'abitudine di mangiare senza sporcarsi la cravatta di peli. Le locande sul genere della sua, dice Angelo, sono di solito cruente. C'è sempre in quei posti un forno per cuocere i cadaveri e un pozzo per gettare le ossa. Ho un forno, ma non ho il pozzo, disse l'uomo. Noti, proseguì, che si possono benissimo sotterrare le ossa nel bosco, dove nemmeno il diavolo le troverebbe. Nelle condizioni di spirito in cui mi trovo, disse Angelo, niente mi farebbe più piacere di un'avventura del genere. Gli uomini sono fatti in uno strano modo. Inutile dirlo, credo, a un sottufficiale che ha avuto l'onore di appartenere al 27esimo Fanteria Leggera. Ma ho tanto da discutere con me stesso su argomenti particolarmente difficili che proverei un grande sollievo ad essere assalito da due o tre tipi risoluti e feroci, che mirassero alla borsa e non potessero evitare la galera e perfino la ghigliottina se non facendomi fuori. Credo che accetterei la lotta con gioia anche in quella scaletta stretta che vedo laggiù. Eppure è difficile poterci fare delle finte. Mi piacerebbe perfino essere in una soffitta, con la porta che non si potesse chiudere, e udire salire a piedi nudi gli assassini, potermi dire che ho da tirare due colpi di pistola e che poi dovrò trarmi d'impaccio con il pugnale ben affilato che non mi lascia mai. Fece una chiacchierata piuttosto malinconica, era molto serio. Ecco, si disse, il solo modo di parlare d'amore senza che mi si possa canzonare. Sono cose che si dicono, soggiunse l'uomo, ma credo che in quei momenti ci sia poco da stare allegri. Tuttavia, poiché Angelo insisteva con una specie di cupo ardore, gli versò un bicchiere di vino e parlò con filosofia e buon senso della gioventù per la quale tutti sono passati, ciò che prova come i suoi pericoli non siano mortali. Mi farò eremita, pensò Angelo. Perché no? Un orticello, delle vigne, forse una tonaca, che dopo tutto è un vestito comodo, e dei tendini magri magri per attaccare la testa alla tonaca. Comunque la cosa fa grande impressione. Uno che tema soprattutto il ridicolo è perfettamente protetto. Ecco forse un mezzo per essere libero. Al momento di pagare il conto, l'uomo perse ogni filosofia e mendicò letteralmente qualche soldo. Non nominava più il 27esimo Fanteria Leggera, ma usò molto più la parola solo. Si rendeva conto che a quella parola ogni volta gli occhi d'angelo si velavano. Ottenne facilmente quello che volle e si mise in testa il suo berretto da poliziotto per avere il piacere di toglierlo e di tenerlo in mano mentre accompagnava Angelo a montare a cavallo. Era quasi l'una del pomeriggio e il calore era amaro come fosforo. Non stia a passare al sole, disse l'uomo, frase a quanto riteneva di una profonda ironia, perché non c'era ombra da nessuna parte. Ad Angelo parve di entrare al passo del cavallo nel forno di cui aveva parlato un momento prima. Percorreva una valle strettissima, folta di macchie di querciole. Le pareti rocciose che vi precipitavano erano incandescenti. Sgretolata in un fine polverio irritante, la luce sfregava la sua carta vetrata su Angelo e sul cavallo assonnati, sugli alberelli che a poco faceva sparire nell'aria logora. Nel tremolare della sua grossa trama, macchie di biondo unticcio si mischiavano a ocro opachi, a grandi lembi di gesso nei quali era impossibile riconoscere qualsiasi forma consueta. Lungo alte rocce frattuose, colava l'odore dei nidi putrefatti abbandonati dagli sparvieri. I pendii scaricavano nella valle l'odore dolciastro di tutto ciò che era morto all'intorno sulle colline scialbe: ceppi e pelli, nidi di formiche, piccole gabbie toraciche grosse come un pugno, scheletri di serpenti simili a frammenti di catene d'argento, stendardi di mosche abbattute come manciate d'uva di Corinto. Istrici morti le cui ossa parevano il latte delle castagne dentro ai ricci, lembi ringhiosi di cinghiale disseminati su larghe aia d'agonia, alberi divorati da cima a fondo, zeppi di segatura fino agli ultimi ramoscelli che l'aria densa teneva ancora ritti, carcasse di bozzagri crollate tra i rami delle querce su cui batteva il sole, e l'odore acre delle linfe che il calore faceva esplodere nelle fessure lungo i tronchi dei maraschi selvatici. Tutto questo mondo barbaro non esisteva soltanto nel sonno rosso di Angelo. Non c'era mai stata nelle colline una simile estate. Del resto, quel giorno, lo stesso calore eccessivo cominciò a irrompere a ondate presto brutali sui paesi del sud, sulle solitudini del Var, dove i quercioli si misero a crepitare, sulla fattoria sperduta degli altipiani, dove le cisterne furono a un tratto assalite da stormi di piccioni, su Marsiglia, dove le fogne cominciarono a fumare. sul mezzogiorno, il silenzio della siesta era così profondo che nei viali le fontane risuonavano come di notte. A Rouen, già alle 9 del mattino, vi furono due persone colpite da malore. Un carrettiere che ebbe un attacco proprio all'ingresso del paese, portato in un'osteria, messo all'ombra e sottoposto a un salasso, non aveva ancora ripreso l'uso della parola. E una ragazza di 20 anni che alla stessa ora si lordò all'improvviso, in piedi, vicino alla fontana dove stava bevendo. Aveva cercato di correre verso la sua casa che si trovava a 2 passi, ma era caduto come un ammasso sulla soglia. All'ora in cui Angelo dormiva sul cavallo si diceva che fosse morto. A Draguignan le colline riverberavano il calore nella conca in cui si trova la città. Fu impossibile fare la siesta. Le piccolissime finestre delle case, che in tempi normali permettono alle stanze di restare fresche, adesso, dal caldo che faceva, s'aveva voglia di ingrandirle a colpi di piccone per poter respirare. Tutti andavano nei campi, nessuna sorgente, nessuna fontana. Mangiarono dei meloni e delle albicocche, caldi come se fossero cotti, e si sdraiarono sull'erba, ventre a terra. Tutti mangiarono melone anche alla valletta, e proprio nel momento in cui Angelo passava sotto le rocce dalle quali colava un odore di uova putride, la giovane signora di Teus scendeva di corsa, in pieno sole, le scale del castello per andare al villaggio, dove pare una sguattera che vi si era scesa un'ora prima, proprio nel momento in cui quella vecchia canaglia della locandiera diceva ad Angelo: «Non stia a passare al sole». Si era sentita improvvisamente molto male. E adesso, mentre Angelo continuava a seguire ad occhi chiusi quel sentiero torrido attraverso i colli, la sguattera era morta. Si pensava che fosse un attacco d'apoplessia, perché aveva il viso nero. Tra il caldo, l'odore della morte, quel viso nero, la giovane signora fu presa dalla nausea e dovette andare al dietro a un cespuglio per vomitare. Si fecero mangiate formidabili di melone nella valle del Rodano. Quella valle seguiva a oriente il territorio verderame che Angelo stava attraversando. Per effetto del fiume vi crescevano macchie d'alberi dai fusti altissimi, sicomori, platani di oltre 30 metri, faggi lussureggianti dalle fronde ricadenti, bellissime, fresche. Quell'anno non c'era stato inverno. I bruchi dei pini avevano mangiato gli aghi di tutte le pinete. Avevano scarnificato perfino le tuie e i cipressi. S'erano perfino trasformati per poter mangiare le foglie dei sicomori, dei platani, dei faggi. Dalle alture di Carpentras, attraverso una centinaia di leghe quadrate di scheletri d'alberi, di foglie ridotte un merletto o una cenere che volava via col vento, si potevano scorgere i bastioni d'Avignon, come un torace di bove sbiancato dalle formiche. Il caldo vi arrivò quello stesso giorno e alle prime mazzate fece crollare l'ossatura degli alberi più malati. Nella stazione d'Orange, i viaggiatori di un treno in arrivo da Lyon picchiarono con tutte le loro forze sullo sportello del loro scompartimento perché qualcuno venisse ad aprire. Morivano di sete, molti avevano vomitato e si torcevano dalle coliche. Il macchinista venne agli sportelli con la chiave. Ma dopo averne aperti due non poté aprire il terzo e si allontanò per andare ad appoggiare la fronte ad una balaustra, contro la quale infine stramazzò. Lo portarono via ed ebbe la forza di dire che bisognava staccare al più presto la locomotiva, che rischiava di prendere fuoco e di scoppiare. In ogni caso, diceva di girare subito a sinistra e a fondo la seconda manopola. Intanto i viaggiatori del terzo scompartimento battevano sempre coi pugni contro lo sportello chiuso. C'era un'enorme quantità di meloni nelle città e nelle borgate di tutta la valle. Il calore era stato propizio. Era impossibile pensare a mangiare qualcosa. Pane, carne, facevano nausea solo a pensarci. Si mangiava melone. Questo faceva bere. Grandi lingue di schiuma uscivano dalle canne delle fontane. Tutti avevano una voglia furiosa di sciacquarsi la bocca. La polvere che fumava dalla ramaglia crollata di certi alberi e quella che usciva dalle praterie bianche come neve, dove il fieno calcinato si spiaccicava sotto il peso dell'aria, irritava la gola e le narici come polline di platano. I vicoli intorno alla sinagoga erano disseminati di bucce, di semi e di mucillagine di melone. La gente mangiava anche pomidori crudi. Era il primo giorno e in seguito quei detriti marcirono presto. La sera di quel giorno cominciarono a imputridire e la notte seguente fu più calda del giorno. Per un momento i contadini avevano fatto entrare a Carpentras più di 50 carrettate di grossi cocomeri. All'una del pomeriggio una trentina di quei carri vuoti tornò alle poponaie, appena fuori dalle mura. Nel momento in cui 30 leghe d'occidente di Carpentras, Angelo, mezzo addormentato sul suo cavallo, si lasciava portare al passo entro le gole nauseanti per il caldo e per l'odore di uova marce, si cominciarono a vedere delle bucce di melone sparse sul corso e persino nei dintorni della sottoprefettura, della biblioteca, della gendarmeria regia e dell'albergo del Leone, il meglio frequentato della città. Nuove carrettate di melone arrivavano dalla campagna. Un medico prendeva alcune gocce di elisir paregorico su una zolletta di zucchero. La diligenza di Blovac, che doveva partire alle 2, non attaccò neppure. Come in aperta campagna, anche nella città e nei paesi, la luce di quel calore era misteriosa come la nebbia. Da un lato all'altro della strada faceva sparire i muri delle case. Il riverbero delle facciate su cui batteva il sole era così intenso che dalla parte opposta l'ombra abbagliava. Le forme si alternavano in un'aria vischiosa come sciroppo. La gente camminava in una specie di ubriachezza e questa ubriachezza non veniva dal ventre dove gorgogliava la polpa verde e l'acqua dei meloni masticati in fretta, ma da quell'imprecisione delle forme che spostava le porte, le finestre, i catenacci, le portiere, le tende di rafia, modificava l'altezza dei marciapiedi e le posizioni dei selciati. A ciò si aggiungeva che tutti camminavano ad occhi socchiusi e che, come avveniva ad Angelo, sotto le palpebre abbassate che il sole tingeva di rosso papavero, tutti i desideri facevano sorgere delle immagini d'acque gorgoglianti nelle quali si vacillava. Accadde così fin dai primi giorni che molti malati passarono inosservati. Non ci si occupava di loro che quando non avevano la forza di arrivare a casa e cadevano in strada. E anche in quei casi, non sempre, se cadevano sul ventre si poteva credere che dormissero. Soltanto se rotolando a terra finivano per restare supini, i passanti vedevano i loro visi neri e si preoccupavano. E perfino in questi casi, non sempre, perché quel caldo e quei sogni di bere rafforzavano l'egoismo. È per questa ragione, in realtà, che quel primo giorno, e precisamente mentre Angelo sotto le sue palpebre arrossate andava pensando alle carcasse di bozzagri crollate fra i rami delle grandi querce, vi furono in tutto ben pochi malati. Un medico ebreo, avvertito da un rabbino che si inquietava della cosa soprattutto per ragioni di igiene, venne a esaminare 3 cadaveri stesi proprio sulla porta della sinagoga. Si suppose che avessero voluto entrare nel tempio per mettersi al fresco. A Carpentras, quel pomeriggio, vi furono soltanto 2 allarmi, compreso il cocchiere della diligenza di Blovac, per il quale era difficile distinguere la responsabilità dell'assenzio da quella del caldo. Era un uomo corpulento dagli appetiti e dalle seti imperiose, e dopo un pasto in trattoria, senza dubbio, era stato il solo a mangiare a mezzogiorno in tutta la città, dove aveva ingollato un piatto intero di trippa. Sarebbe avuto 7 bicchieri d'assenzio, uno dietro l'altro, come caffè e come digestiva.